perché la popolazione è piccola, ogni anno nascono intorno tra i 10 e i 15 cuccioli, che hanno una mortalità naturale del 50% nel primo anno di vita. Quindi quelli che nascono in circa un corrispondente per 100 anni. Non è più di 5-6 cuccioli che ogni anno arrivano all'età adulta, e naturalmente se 2-3 orsi ti trovi uccisi dall'uomo, quelli che trovi uccisi, perché poi ci sono quelli che non trovi, qualcuno muore naturalmente e la popolazione sta lì, si ferma lì. Quindi finché non eliminiamo la mortalità di origine antropica, allora non recuperare, però non è allora vi faccio vedere. Adesso scendiamo giù nella piana, occhi alle mucche. Non vi fate i sacchi con le mucche. Che se c'è un animale pericoloso è la mucca in montagna. Se chiede pastore basta che state a distanza, tranquillo. Da lui e dalle mucche. Allora, vi voglio far vedere giusto quelle casupole che sono lassù. Voi immaginate che appunto 2000 anni fa qua c'erano degli insediamenti. Quindi se foste venuti qua 2000 anni fa avreste visto le persone che sono quelli della valle, che sono degli insediamenti romani. A un certo punto nel Medioevo lassù, che il Monte Rosso era anche una chiesa, che è stata costruita sulle linee di un vecchio tenente romano. E invece le ultime costruzioni che sono rimaste adesso sono quelle che si vuole là, che erano le stalle dei pastori. Quindi quando i pastori e gli agricoltori venivano qui, spesso dormivano anche in montagna, perché non fare un periodo per restare anche con i greggi, anche con le mandre, restavano qua. Quindi qua ci sono ovviamente mucche, quaglie e poi si può fare.